GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Alle 12.15 ancora un cordiale buongiorno dalla Razzani Armando Mucchino a voi con le notizie della TGR del Friuli Venezia Giulia. Oggi a Trieste è la giornata di Papa Francesco, arrivato per chiudere solennemente la settimana sociale dei cattolici. Primi incontri e discorsi al Convention Center di Porto Vecchio, poi la messa in Piazza Unità, da dove ci riferisce in diretta Antonio Di Bartolomeo. Papa Francesco sta per decollare proprio in questi secondi. Forse sentite in sottofondo il rumore del motore. Dell'elicottero dell'aeronautica militare che lo sta portando indietro verso il Vaticano, da dove questa mattina era partito alle 6:30 del mattino. Andrà appunto in via con lo stesso elicottero sotto un sole cocente. Oltre 8.000 fedeli hanno assistito in Piazza Unità d'Italia alla messa con passaggi letti e cantati in lingua slovena, oltre che ovviamente in italiano, fino alla tradizionale preghiera domenicale dell'Angelus, tutto anticipato di circa una mezz'ora rispetto al previsto. Intanto proprio in questo momento si sta sollevando l'elicottero con all'interno Papa Francesco. Forse sentite anche l'applauso della folla qua vicino a me. Siamo nei pressi del Molo d'Ace, la base più o meno del Molo d'Ace, che per ragioni di sicurezza è stato chiuso al pubblico, e vediamo proprio questo istante l'elicottero bianco che si allontana e che dunque riparte, si termina così dunque la visita di Papa Francesco. Ma dicevamo nell'omelia, il pontefice ha lanciato un messaggio forte alla comunità dei cattolici triestini, chiedendo loro di impegnarsi nei confronti dei migranti che arrivano per la rotta balcanica da questa città affacciata sull'Europa, crocevia di popoli e culture, terra di frontiera. Ha detto il Papa: alimentiamo il sogno di una nuova civiltà fondata sulla pace e sulla fraternità. Poi Francesco ha citato un passaggio della poesia Città Vecchia di Umberto Sabe, ha condannato il consumismo, definito un cancro che anestetizza. Ha voluto smuovere le coscienze Papa Francesco, chiedendo perché restiamo apatici e indifferenti dinanzi alle ingiustizie del mondo. Successivamente l'Angelus ha fatto un appello per la pace, citando luoghi di conflitti tra cui la martoriata ucraina, trovando l'approvazione dei greco-cattolici ucraini in piazza presenti. Parole quelle del Papa accompagnate dagli applausi, tra cui quelli della signora Maria di 111 anni a cui Francesco ha donato un rosario. Il Santo Padre ha abbracciato molti bambini girando per la piazza per più di un quarto d'ora con la piccola vettura elettrica in dotazione al Vaticano, e ha donato loro una caramella oltre che una benedizione. In centinaia si sono assiepati da Piazza Tomaseo fino alla Capitanera di Porto, appena fuori dal perimetro di sicurezza, perché non avevano il biglietto d'ingresso, perché arrivati troppo tardi, complice anche lo sciopero dei treni. Costoro però hanno potuto salutare il Papa mentre andava via, almeno. Imponente lo spiegamento di forze di polizia, di militari, di operatori sanitari, che sono intervenuti per diversi malori favoriti dal caldo, nonostante la distribuzione di cappellini e acqua ai fedeli in piazza. Da Trieste è tutto, la linea a voi. Ma sentiamo alcuni passaggi dell'omelia di Papa Francesco alla messa di Piazza Unità. Abbiamo bisogno dello scandalo della fede. Una fede che suscita domande sul futuro dell'uomo e della storia. È una fede inquieta, una fede che spiazza i calcoli dell'egoismo umano, che denuncia il male, che punta il dito contro le ingiustizie, che disturba le trame di chi all'ombra del potere gioca sulla pelle dei deboli. Perché dinanzi al male che dilaga, alla vita che viene umiliata, alle problematiche del lavoro, alle sofferenze dei migranti, non ci scandalizziamo? Perché non prendiamo a cuore la situazione dei carcerati, che anche di questa città di Trieste si leva come un grido di angoscia? E a questa chiesa triestina vorrei dire: avanti, avanti. Continuate a impegnarvi in prima linea per diffondere il Vangelo della speranza, specialmente verso coloro che arrivano dalla rotta balcanica, e verso tutti coloro che nel corpo e nello spirito hanno bisogno di essere incoraggiati e consolati. Papa Francesco era arrivato con qualche minuto di anticipo sul programma in Porto Vecchio, dove ha pronunciato un primo discorso con richiami a fede e democrazia. La platea, seduta e paziente, istituzioni civili e religiose, la stampa, anche internazionale. Ad attendere il Papa dalle 7 del mattino, la sala gremita del Trieste Convention Center di Porto Vecchio. Poi il rumore dell'elicottero, la conferma dal palco che Papa Francesco sarebbe arrivato con lieve anticipo e alle 7.53 l'atterraggio. Pochi minuti dopo tutti in piedi ad accogliere il pontefice. Saluta le istituzioni e poi subito Papa Francesco cattura cuore e simpatia della platea raccontando un ricordo della sua infanzia sulla città di Trieste. Prima volta che ho sentito parlare di Trieste è stato da mio nonno che aveva fatto il 14 sul Piave e lui ci insegnava tante canzoni e una era su Trieste. Il general Cadorna scrisse alla regina: se vuol guardare Trieste, che la guarda in cartolina. È stato denso di contenuto il suo discorso e si è concentrato sul titolo della settimana sociale, al cuore della democrazia, democrazia che però, ha detto Bergoglio, non sta bene. È evidente che nel mondo di oggi la democrazia, diciamo la verità, non gode di buona salute, eh? La cultura dello scarto mina la nostra democrazia, la società emargina gli esclusi, i poveri, i nascituri, gli anziani, i giovani. Denso di messaggi il suo discorso, a partire dalla questione dell'astensionismo, l'indifferenza, ha detto, è il cancro della democrazia. A me preoccupa il numero ridotto della gente che è andata a votare. Cosa significa quello? E poi un messaggio sull'assistenzialismo che non riconosce la dignità delle persone. L'assistenzialismo è nemico della democrazia e nemico dell'amore al prossimo. Per risanare il cuore della democrazia bisogna esercitare la partecipazione e si sofferma sul termine popolo. Che non è populismo, no, è un'altra cosa, è il popolo. Il buon politico, ha detto Papa Francesco, è come un buon pastore del popolo. Un politico che non abbia il fiuto del popolo è un teorico. Le manca il principale. Ai tanti giovani in platea l'augurio di essere artigiani di democrazia e testimoni coraggiosi di partecipazione. E per favore vi chiedo di pregare per me, perché questo lavoro non è facile. Grazie. Trieste, Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia. Siamo alla pagina del tempo, cielo da sereno poco nuvoloso su pianura costa, coperto in montagna, le temperature registrate alle 11, Trieste 27 gradi, mare quasi calmo con temperatura di 26 gradi, Gorizia 28, Pordenone 27, Udine 26 gradi e 5 decimi, Tervisio 21 gradi e mezzo, Tolmezzo 20 gradi e 5 decimi, Forni di Sopra 18, Piancavallo 17, Sappada 14, sullo Zoncolan 13 gradi, tornando sulla costa a Lignano 28, grado 27 con temperatura del mare 26 gradi e 5 decimi. E vediamo le previsioni dell'ARPA Friuli Venezia Giulia per oggi. Su pianura e costa cielo variabile ma con maggiore presenza di sole verso la costa, dove soffierà vento moderato dal mare. Sui monti cielo da variabile a nuvoloso con la possibilità di locali rovesci e qualche temporale, più probabili verso il Cadore. Anche sull'alta pianura e sulla pedemontana, specie quella pordenonese, saranno possibili dei rovesci. Parte oggi a Lignano un servizio di bus navetta gratuito per collegare il parcheggio del Luna Park, dove si potrà lasciare l'auto e arrivare a lungomare. Raggiungere la spiaggia gratuitamente senza il problema di trovare un parcheggio e senza costi né di sosta né di trasporto. È partito questa mattina, voluto dall'amministrazione comunale, un nuovo servizio di bus navetta sperimentale gratuito che collega ogni 15 minuti il parcheggio libero del Luna Park su Via l'Europa con il lungomare di Legnano Sabbiadoro tutte le domeniche di luglio e agosto, compreso il giorno di Ferragosto, dalle 9 alle 21 è possibile lasciare l'auto e salire sul bus diretto alla spiaggia. Due le navette impegnate con la partenza sia dal Luna Park sia dal lungomare di Sabbiadoro ogni 15 minuti. Lungo il tragitto ci saranno 6 fermate all'altezza degli uffici spiaggia di Sabbiadoro 2, 5, 7, 11, 14 e 18. Oltre al comune, spiega l'assessora alla viabilità e trasporti Marina Bidin, partner del servizio sono l'ISAGEST, il consorzio Spiaggia Viva e il tavolo Lignano 2030. L'auspicio, aggiungono dall'amministrazione comunale, è quello di trovare un riscontro positivo all'avvio del servizio in modo da pensare a una sua introduzione, se serve implementazione, già dall'avvio della prossima stagione turistica. Legnano Sabbiadoro, Natascia Gargano, TGR Friuli Venezia Giulia. Ma come sta andando la stagione turistica estiva in montagna? Siamo andati a vedere a Tarvisio. Un inizio di stagione un po' altalenante, certo il meteo non aiuta il turismo in montagna, tante le presenze durante il fine settimana, per il resto dei giorni un turismo che diminuisce sensibilmente. Un turismo fatto per il 90% da cicloturisti che spesso trovano difficoltà a rientrare dall'Alto Friuli sino a Tarvisi. Piene le strutture nel tarvisiano grazie alla ciclovia che sta allungando la stagione di 3-4 mesi. Importante l'apertura del nuovo tratto della ciclabile Moggio Carnia per mettere in sicurezza i ciclisti. Tarvisio, Giovanni Tormina, TGR Friuli Venezia Giulia. Era questa la nostra ultima notizia, collaborato in redazione Laura Serasini, per la parte tecnica Carlo Morello e Walter Vidonis, dalla Razzani Armando Mucchino, grazie per l'ascolto e l'augurio di una buona giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.